questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera, bentornati anche per questa settimana a RadioTube. Non ho ancora deciso se è la terza o la sessantesima puntata del nostro programma di Radio 24, che come sempre vi fa ascoltare, anche quest'anno lo diciamo, il perdibile, l'imperdibile, l'imperdibilissimo, tutto quello insomma che ha fatto discutere la rete, quello che ci ha fatto discutere questa settimana, caro Daniele. Sì, ci sono. Dunque, devo dire, i nostri account... No, non ero distratto. Passavano persone, ti eri di... Ma non lo so. Dunque, i nostri account, Marta Cagnola... Colletta davanti, Di Bellasio ovviamente colletta davanti, e l'hashtag con il cancelletto davanti, Radio Tube. Questa settimana, sì, in realtà, più che dei dibattiti sulla rete, sui social network, c'è stato un vero e proprio derby. Allora, la domanda che io ti faccio è: si nota di più se ne parliamo di questo derby o se non ne parliamo? Perché potremmo anche decidere di non parlare di Floris e Giannini. È stato un delirio collettivo, sicuramente sui social, più che in effetti in televisione, come dice Carlo Freccero, che noi abbiamo avuto legge, ospite più la lo scorsa twitti, settimana. Meno lo vedi. È meno, in realtà, il paese reale, il paese guarda. Reale. Infatti, i dati d'ascolto alla fine hanno dato Ballarò all'11,8% contro il 3,5% di martedì, quindi Giannini 11,8%, 3,5% di martedì. In realtà i Cesaroni hanno preso il 16%, quindi diciamo che il dibattito è stato puramente così indicativo degli umori della rete e dei giornali che hanno riempito paginate e paginate. Quindi, visto che ci sono state queste paginate e paginate, queste discussioni in rete, dai, parliamone. Sì, anche perché io penso che praticamente sia colpa del Premier. Cioè, la mia tesi, sì, è colpa di Renzi. Perché? No, perché praticamente Renzi e questa la situazione politica attuale, sono monomaniacale. La situazione politica attuale, sì, è tale per cui non c'è più un vero bipolarismo. Quindi noi vogliamo avere un bipolarismo almeno in televisione. E quindi l'abbiamo replicato non all'interno di un talk show, ma tra due talk show. E il giorno dopo siamo tutti, mi ci metto io per primo, saliti sul carro del vincitore. Ah, quindi per tu Giannini. Sì, io sono contento di Giannini perché secondo me la sua timidezza, il suo modo un po' low profile di condurre, ma con toni anche assertivi ogni tanto, non è un di meno. Io, nonostante quell'occhio azzurro lì che proprio non resisto, però io sono per non so, il con... io, se vuoi, oggi gli occhiali. Oggi il problema gli occhiali, è, sì, oggi hai gli occhiali. Sì, gli occhi azzurri l'occhio ti hanno molto scossa. L'occhio azzurro al quale non posso resistere, io tifo sempre per il conduttore a lungo chilometraggio. Guarda, quindi di martedì però Giovanni è Floyd difficile anche tecnicamente da difenderlo questa settimana, ma ammetto che invece 19:40 almeno un'idea diversa di una trasmissione, quella che va in onda prima del telegiornale, sì, quella che per cui Mentana, sì, c'è un po' di nervosismo, secondo me diciamo che l'effetto traino non è proprio dei migliori, però dici che è di lungo raggio, prima o poi si riprende. Sono sicura. Intanto bene, però noi diciamo dibattito, rivalità, sentiamo com'è iniziato Ballarò, perché lo stesso Massimo Giannini ha detto: ah, volete metterci contro l'un no, l'altro, i giornalisti per carità, parlano sempre no, male l'uno dell'altro, scrivono malissimo, siamo amici, non è vero, grazie, ma quando mamma no, anzi in bocca al lupo, anzi io lo guardo mentre faccio mentre faccio Ballarò, guardo perché mi piace di martedì, eccolo qua. Il primo ringraziamento lo devo a Giovanni Floris, senza il quale questo programma non sarebbe diventato quello che è. Dovete sapere, giusto, dovete sapere che purtroppo tra noi giornalisti esiste un gusto quasi sadico, a volte io dico anche un po' miserabile, di parlare e scrivere male l'uno dell'altro. Gelosie, rivalità, rancori. Bene, non è il nostro caso, sicuramente non è il mio caso. Ognuno ha fatto la sua scelta e in bocca al lupo. Beh, qua ha detto in bocca al lupo, in altri istanti ha detto buona fortuna. Sì, come adesso vinci, puoi dire quello. Io di fronte a un buona fortuna sarei praticamente svenuta, perché poi anche lui poi conclude con good night and good luck, buona fortuna. Però hai sentito che la voce era sinceramente emozionata, funziona, bravo ragazzo, funziona. Sei un po' di parte, io vorrei riferire il commento di Paolo in regia, che ha detto: sentendolo solo in audio sembra Valerio Mastandrea. Tale quale, a proposito di domani, tale quale. quale, così abbiamo già fatto uno spoiler, anticipazione di quello che succederà domani. Però erano i comici, c'è anche il derby dei comici. La sfida, io andrei subito col primo, cioè che ti fa molto ridere, no? Cosa hai scritto? Che mi si era spento il neurotrasmettitore della risata. Non ho riso mai, né da una parte né dall'altra, confesso. A Ballarò c'era intanto Roberto Benigni. Senta, signor Benigni, ma sto PD esiste ancora, secondo lei? Esiste ancora il PD? Il PD esiste, è l'unico partito che riesce a fare opposizione a Renzi. Meno male che c'è il PD, se non ci fosse Renzi, lo sai, hai capito? Sempre a proposito del PD, no? Questa è stata l'estate delle Renzi Girl, un ministro addirittura in topless. Un ministro fotografato al mare a seno nudo, diciamo, non succedeva dai tempi di Spadolini, io non ricordo. L'hai messo per Spadolini. Sì, l'ho messo per Spadolini. Giannini, bel ragazzo, educato, occhi signor azzurro. Benigni. Sì, signor Benigni, il ritorno del signor. Come spalla comica però, No, vabbè. Come spalla comica no. Radio Tube. Rieccoci insieme, beh, insomma, abbiamo cominciato a discutere un po' sul grande duello del martedì sera. Era impossibile non parlarne, un po' di dubbio c'era perché se ne è parlato talmente tanto, però visto che noi dobbiamo seguire un po' con RadioTube i temi caldi della settimana, soprattutto quelli che viaggiano e condizionano un po' l'Italia e il dibattito del paese tra televisione, social TV, insomma social network, non parlare del duello. Era veramente troppo snob, non si poteva fare. Sì. Sarebbe stato un po' c'era il duello nel duello tra i comici, no? Sì, abbiamo sentito Benigni era un asso da mica da ridere, giocato la prima puntata. Sì. A me fa ridere perché comunque ha un corpo diciamo molto attore con il corpo e a me diverte. Peccato che non fosse in studio, dobbiamo dirlo. Questo certo, in mezzo alle piante, certo, c'è questo ci sono alcuni ospiti che quasi lo pretendono, no? Sì, vengo ma non sto vengo in del disparte. Tutto. Esatto, che è un po' una forma di devo sottolineare che sono, che ne so, un Oscar, un Nobel, un direttore di un importante giornale, insomma. Vale tanto questa cosa qua. Invece, però, anche Crozza, a dire la verità. Però Crozza è una sorta una di collegamento. È una cosa scenica. Sì, è una cosa scenica. Eravamo tutti lì con il cronometro. Sì, parte tu mi hai Benigni, anche segnalato che esiste un tasto che conoscevo a malapena. Il tasto per saltare da un canale all'altro. Il torna indietro, il resta tra questi due. Certo, no, perché allora. Nelle vite private questo servirebbe tantissimo. Come si fa a fare Zapping Damaschi? Svegliamo il retroscena, era... Ma ne segui tu uno e io l'altro. Esatto. E ovviamente l'uomo pensa: io ne seguo solo uno perché riesco a seguirne solo uno alla volta. E invece gli ho spiegato che si possono anche. Perché sei donna. E ne seguo due contemporaneamente. Ma non divaghiamo. Abbiamo sentito Benigni. Vabbè, facciamo un confronto all'americana con un minutino Crozza. Di Crozza. Sì. Eccolo qua. Signori miei, lasciatemi spiegare ancora una volta il programma dei 1000 giorni. Lo ripeto da 3 mesi. E sono sempre 1000 giorni. È già un programma magico. Potrei fermarmi qui. Prima era cambia verso, ora è passo dopo passo. Vi spiego come funziona. Renzi, dice qualcuno, ci sarebbe da fare una riforma del lavoro. Passo. Renzi, ma coi precari come facciamo? Passo. Renzi, l'emergenza mafia. Passo. Vedete? Passo dopo passo arrivi a fine legislatura senza aver fatto un bene amato passo. Vabbè, io ho scelto forse la battuta più... Io non ho riso, però questa era carina. Sì, io ero di là, in questa fase qui ero dal tasto quello di là. E quindi non però non secondo me, sì? E anche secondo... No, questo è più... lo devi dire più tu. Secondo me l'esperimento... Perché una delle accuse che si può fare a queste due trasmissioni è che non c'erano delle grosse novità. Non è che ci fossero queste grandi idee nuove. No. C'erano due personaggi, due conduttori e poi il solito talk show. Però con Giannini un po' più sul one to one e Ballarò sì, perché di prima martedì, vedi che li confondiamo. Benigni, poi Prodi, sì. In Invece però a Ballarò una cosa strana e nuova l'hanno fatta intravedere verso la fine della puntata. So che ti è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto. Te lo lancio, ti dico, Filippo Timi, cos'è successo? Scrittore, attore, non so, come lo definiresti? Tu che ami le categorie, giornalismo e quella cosa lì, conduzione, quella... come lo definiresti? Lui è eclettico, eclettico e sa fare tutto bene. Lui sa fare tutto bene. Hanno fatto in pratica un House of Cards alla matriciana. Cioè, no. Ma certo, come creare un politico per caso, doverlo poi sostenere, farlo vincere, malgrado questo candidato non sia proprio, diciamo... Sì, presentabilissimo. Ecco, qua, allora... C'è Filippo anche Bebo Storti. Che a te piace tanto. Filippo Timi è Pietro Zucca Postino, che viene arruolato così per diventare un candidato e un uomo politico. Ascoltiamone un pezzettino, ascoltiamo il trailer del candidato, ecco qua. Il nostro candidato preferito. Siamo sicuri che questo è così stupido da fare tutto quello che gli dite? No al nucleare, no al solare, no all'eolico, sì alla schiavitù. Cambiamo accento all'Italia. Italia. Suona meglio, no? Sì. Siamo in guerra! Sarà una grande campagna elettorale. Cosa vuoi fare tu? Esprimere un concetto. Beh, c'è anche la mano di chi sa lavorare bene in rete, come La Buon Costume, che è un gruppo collettivo che ha firmato la sceneggiatura. Il format è francese, però il prodotto è tutto italiano. So che vedremo, ti è piaciuto molto. Vedremo, è una novità, una novità divertente. Però io so che tu in realtà aspettavi qualcos'altro quella sera. Beh, non come da martedì prossimo, che tu guarderai solo House of Cards e quindi non seguirai esatto, più c'è nulla. Il calo fisiologico. Ma mica solo io, tanti hanno scritto: dividiamoci pure tra Floris e Giannini oggi, tanto la prossima settimana House of Cards. Ma tu che sei Underwood, così un ragazzo un po' attento alla tradizione, aspettavi solo Vespa quella sera lì, dai. No, perché è stato straordinario. Mentre di lì c'era, si scannavano, tu a un certo punto ho girato tac sull'uno e lui cosa ti piazza? Il ministro dell'economia seduto davanti alla sua poltrona con domande toste, incalzanti, a volte persino divertenti. Ministro dell'economia, c'è solo un problema, c'ha solo giacche di una taglia più grande, l'ho scritto anche su Twitter per avvisare. Accidenti, bisogna... sì. Per il resto, cioè, aveva le, insomma, la cosa che contava. Così che si fa così, si certo. È infilato Brunone e alla grande, però non so quanto ha fatto di share. Ha fatto il 7, se non sbaglio, ha fatto il 7. Quindi? E tra l'altro si è sovrapposto a lungo, si è sovrapposto a lungo, e non per poco, mica a caso. Tra di martedì e Ballarò sono state quelle 6 ore che io mi sono guardata poi online dopo. Qualcuno ha scritto a questo punto: il festival di Sanremo dura 2 giorni, se questo. Ma certo, ma potremmo chiederlo domani. Domani. No, non diciamo ancora domani. So che c'è un'altra cosa che ti è piaciuta molto questa settimana ed è stato l'esordio di Corrado Formigli. Con una cosa molto particolare, anzi io andrei subito a sentire l'audio. Certo. Perché, eccolo qua. Sono le 10 del mattino e stiamo andando verso Mahmur, 30 km a sud-est di Erbil, dove ci sarebbero in corso degli scontri tra i Peshmerga e l'ISIS. Qui c'è un controllo checkpoint. Niente riprese. Al checkpoint di Khazar si muovono i Peshmerga su blindati e camionette. 45 minuti fa è iniziata l'offensiva dei nostri Peshmerga contro i terroristi dell'ISIS sulle montagne sopra Khazar. Non possiamo assolutamente seguirli. Beh, insomma, da conduttore ha preso ISIS. Ed è andato. Vedi, tu mi prendi in giro e io dico è giornalismo. Per me uno che prende e va e guarda e fa quest'atto di coraggio fa il giornalista. Sì, ma il problema soprattutto è che scenario politico determinato in un certo modo dovrebbe indurre chi fa trasmissioni di questo tipo a scegliere di raccontare altre cose, anche altre cose. In prima serata parlare dell'ISIS, degli yazidi, del Medio Oriente, del caos che abbiamo ai confini dell'Europa, insomma, a me sembra comunque un tentativo lodevole. Peraltro mi pare che lo share non sia stato, vabbè, si dice sempre ma tanto gli italiani non vogliono seguire queste cose, no, forse gli italiani hanno un po' così l'overdose di talk show politici fatti nello stesso modo. Esatto, forse un po' di novità potrebbe far, esatto, bene. Esatto, esatto, novità. Hai detto novità, allora adesso io dico una cosa che tu non puoi dire perché hai un po' di conflitto di interesse, caro sì, Daniele. Sì, non sono nemmeno qua, sono là. Tu sei anche là, Spotorno. Spotorno in questi giorni, il premio Spotorno, quindi la manifestazione Spotorno subito, abbiamo detto novità, quindi abbiamo come ospite la vincitrice della sezione Primizie, c'è anche l'hashtag Primizie, ho visto, sì, che ho cancellato Primizie. Che è una poesia di Sbarbaro, Camillo Spieghi. Barbaro, certo. Che è, diciamo così, l'intellettuale di riferimento di quell'area della Liguria stupenda, di quest'area. Bene, sono contenta, viva Spotorno e viva il premio Primizie di quest'anno che è andato ad Annalena Benini. Buongiorno Annalena. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anzi, ormai quasi buonasera, ma in questa stagione si capisce ancora poco. Annalena, allora, ti coinvolgiamo intanto sul derby, visto che abbiamo parlato di Floris contro Giannini, chi vince secondo te? Beh, è inevitabile dire che vince Giannini per gli ascolti, ma vince anche perché è la novità e perché ha un sex appeal in più rispetto a Floris, che forse è più rassicurante, però insomma siamo stati già molto spettatrici sue e quindi in questo momento vince Giannini, anche se la scelta di intervistare a lungo Prodi, io lo vedevo però senza audio in quel momento e non era particolarmente eccitante, ecco. Neanche con l'audio. Una cosa davvero nuova. No, ma neanche con l'audio mi sembrava particolarmente rivoluzionario. No, vorrei sottolineare che giustamente Annalena ha detto sì, Floris va bene, ma siamo già state a lungo spettatrici sì, sue. Esatto. Come dire, sei carino, ma sei già un po' usato, vogliamo un po' di... Una storia nuova. Di cose. Io pensavo... un brivido diverso. Sì, il brivido di quegli occhi. Infatti a un certo punto io mi stavo un po' filinino. Sì, ma stiamo annoiando. Parlando di televisione, non è che dovete sposarvi, cioè, no, ma era solo dovreste che io mi stavo annoiando e io ho detto, cercavo telepaticamente di dire a Giannini twittandolo: guarda un filo in camera, che così ma ci no, rianimiamo. E invece un io po'. Penso che sia quella roba lì proprio che piace, cioè che è un antitelevisivo che un po' funziona. Bravo ragazzo, finito a condurre una trasmissione. Sì, e però si capisce che è già molto contento di essere in televisione. Sì, questo è vero, questo un po' è vero. Questo è vero. Vabbè ragazzi, abbiamo parlato tantissimo di Giannini e di Floris. Tanto la prossima settimana Daniele Bellasio guarda House of Cards. Sì. Non guarda più null'altro. Sì, certo. E quindi vabbè. Ma non sei curioso di sapere chi ha vinto l'altro premio? Ah, certo, sì, diciamolo, il premio Sbarbaro. Carlo, lo so. Verdelli, oh. Carlo Verdelli. Infatti sono molto onorata di che questo coppia. Premio insieme a Carlo Verdelli. E vorrei precisare sì. che Primizie sì. non significa che sono giovane, perché poi non vorrei che qualcuno mi prendesse no. in giro dicendo hai 39 anni, ma pensi no, di essere no, giovane. No, Primizie parte, è un altro A parte una bambina. A parte che sei giovane e sei, vabbè, e tutto è. No, Primizie è il giornalismo che innova. YouTube. Rieccoci insieme per la seconda parte del nostro RadioTube del sabato. Li abbiamo dati i nostri account? L'abbiamo allora, dato il nostro hashtag, Daniele? Sì, dunque l'hashtag cancelletto RadioTube. Invece gli account sono @MartaCagnola, @DiBellasio e poi da lunedì sul sito di radio24.it, gran bel sito, c'è anche il podcast. Ma noi stiamo parlando al telefono con Annalena Benini, cui voglio molto bene, come si sa, perché abbiamo anche lavorato assieme a lungo. Annalena, e adesso... allora, no, intanto vi voglio segnalare un pochino di notizie brevi, perché alcune cose di cui si è parlato questa settimana, intanto, pare che sia arrivato questa settimana il selfie più orrido della storia. Sì, pare che la dottoressa che ha operato la povera Joan Rivers si sia fatta un selfie in camera operatoria. No, quindi questa è proprio, abbiamo, non parleremo mai più di selfie dopo questa, perché abbiamo aboliamo la parola, toccato però il fondo del selfie. Poi? Cosa si può segnalare questa settimana? Vabbè, insomma, c'è stato il primo giorno di scuola. Sì, non vi ha parlato nessuno. Io sono stato morigeratissimo. Allora, io l'ho scritto anche quasi prima di leggere. La retorica sul primo giorno di scuola mi manda ai... Già la retorica genitoriale sui social mi manda ai... Quest'anno la cagnola è cattivissima. Volevo essere io il cattivo, è diventata quelli lei. Che postano un angolo di nuca del bambino col ricciolo mentre... E tutti che commentano: oh, che carino. Un angolo di dito, e di piedino, tutti tanti, oh, mi piace. Che carino. Annalena, cosa ne pensi? No, niente, ma che noia, Annalena. Era pieno di foto del primo giorno di scuola e sono delle foto ricattatorie, perché non si può evitare di dire a un bambino quanto è carino, e quindi non si può nemmeno, per gentilezza bisogna mettere un pollice, dire mi piace, quanto è carino. E solo che era un'invasione assoluta di zaini, trolley, perché poi adesso a scuola ci si va col trolley. Sì, oh, sì, è vero, è una roba pazzesca. Sì, io non l'ho fatto, però non ho, ecco. No, anche la Daniele quasi no, no, perché la maestra di Rocco fa lasciare la cartella in classe, che la trovo, visto che insomma bene. All'inizio ma sai chi è caduto? Dai, ti rubo il mestiere. Siccome tu vuoi farla cattiva, quindi rubi il mestiere a me, io lo rubo a te. Sai chi è caduto questa settimana, o è stato accusato di essere caduto sulla retorica del primo giorno di scuola? Ma un filo proprio, eh? Quel signore lì di cui non parliamo mai, che fa anche il Presidente del Consiglio, che ha detto a tutti i ministri: andate nelle vostre... Non ho capito se nelle scuole no, dove no, loro erano state... Potevano scegliere qualunque. In teoria sì, però poi ne hanno scelte anche altre. E lui è andato... Dove è andato lui? Tu che sei allora, la brava conduttrice? Beh, lui ha deciso che praticamente... No. A Vimercate sono andata io a portare i miei nipoti, non ho scritto niente sui social. Allora, lui ha scelto l'istituto Don Giuseppe Puglisi di Brancaccio a Palermo e ha detto ai ragazzi: oggi Palermo è la capitale d'Italia, anzi il quartiere Brancaccio è la capitale d'Italia, e questo senza un filo di retorica ha detto agli studenti. Credo che finché nelle scuole italiane ci sarà una insegnante o un insegnante che ha il tempo per educare alla bellezza della musica o alla profondità di una poesia o al rigore di un'equazione, finché ci sarà un insegnante che farà questo, non potremo dire che quel giorno è andato perso in Italia. E io vorrei il mio grazie più profondo e più sincero alle insegnanti e agli insegnanti e ai ragazzi che si mettono in gioco, che ci hanno accolto con l'Inno Nazionale. È troppo più forte di me. Non, cioè, io non ce la faccio. Non, ci mancava no, solo il libro cuore, sì. Ma no, è troppo. Aveva più il grigliolino forte di me. Io tante cose le approvo, ma questa non ce la posso fare. E a proposito, invece di invece i ragazzi sono più avanti, perché postano un sacco di video su YouTube, fanno i video diari sul primo giorno di scuola, eccetera. Io sono impazzita per questo video. Aspetta, che leggo il nome, perché si chiama Cicci Chic. Sì. Che non ha fatto un video utilissimo. Il Vediamolo. Tutorial per come ci si trucca il primo giorno di scuola. Sì, eccola qua. Ciao a tutti. Oggi nuovo video di make up. È il make up che ho pensato per il primo giorno di scuola, quindi il ritorno a scuola. Quindi sarà un trucco facilissimo che non dà nell'occhio, quindi che non deve essere una cosa molto molto vistosa naturalmente. Allora, parto subito, però prima vi volevo far vedere il mio nuovo arrivato, che ne vado fiera perché erano mesi che lo cercavo e non lo trovavo da nessuna parte. È questo fantastico specchio con la luce a LED. Cioè, quando ho detto nuovo arrivato temevo che mi uscisse anche lei un bambino. Beh, le cose importanti in rete, il tutorial per come ci... Però lei poi Cicci Chic, non l'ho visto tutto, però poi me lo vado a guardare perché voglio farlo anch'io, certo. Chiarisce che si può usare anche per andare al lavoro. Ah, lo stesso. Certo, è un Benissimo. Make-up che si può ci usare anche per andare app al... L'app, aspetta, fammi tirare fuori il foglio. No, perché Annalena Benigni lavora al Foglio, forse non l'avevamo neanche ancora detto. No, l'ho detto. Non l'avevamo detto. Lavora al Foglio da tanti anni. Giovedì 18 Oltre settembre. Che... Sì. Allora, esiste anche un allarme uguale e contrario. L'app trilla per segnalare che quello è un giorno fertile. La signora in ufficio sussulta, telefona al marito, a volte si guarda intorno con aria predatoria. I telefoni suonano e le persone scattano in piedi, scappano via, corrono in bagno, ingoiano integratori, svaligiano negozi di lingerie, chiedono il divorzio, mangiano ananas. Con l'intento di migliorarci la vita, le app ci comandano. Confermo. Annalena. Sì, è una cosa che ho notato prima di tutto su me stessa, perché ogni tanto mi suonava il telefono, io pensavo che fosse un messaggio e invece era una app del mio telefono che mi ordinava di fare qualcosa, quindi di prendere la vitamina C che mi scordo sempre di prendere. Oppure di però si allargavano, diciamo, queste app arrivando a dare consigli di vita che io non avevo richiesto, ad esempio di fare più moto, di telefonare alla mia migliore amica, di fare una lunga passeggiata, di guardare un tramonto. E a un certo punto ho pensato che forse era giusto, in fondo mi stavano dando dei consigli utili con i quali davvero potevo riorganizzare e migliorare una vita disordinata. Fino a che è successo che questo telefono ha cominciato a trillare di notte e dicendomi che dovevo dar da mangiare a un coniglio e il coniglio era il personaggio di un gioco elettronico, di una app che i miei figli avevano installato a mia insaputa sul telefono, e a quel punto è finita, diciamo, la mia storia d'amore con le app. Però ho notato e ho anche letto su diversi giornali che è una moda ormai inarrestabile quella di farsi aiutare dal telefono, e quindi poi è una moda che naturalmente viene utilizzata anche in modi magari maliziosi, perché quindi c'è la ragazza del liceo che vuole far sapere a tutti gli altri che prende la pillola anticoncezionale e quindi fa suonare il suo telefono in un'ora di punta, fruga nello zaino e corre a prendere questa pillola. Quindi ormai con il telefono possiamo fare qualunque cosa, lanciare qualunque messaggio e inginocchiarci davanti a lui e obbedirgli sempre. Ecco, ma Annalena, posso fare una domanda di quelle mie? No, io volevo solo dire che io ne ho una di app la sera che mi chiede solo cosa hai fatto oggi? Cioè, mi ricorda che ho una lista di cose da fare, io mi sento malissimo. Ma l'hai scaricata tu, però la volevi? Sì, però non sapevo che mi chiedesse tutte le sere cosa hai fatto oggi. Niente. Mi sento malissimo. Incolpissima. Annalena, la rete, i social network, i giornali, no? Come lo vivi questa cosa tutta assieme? È un'alleanza? Sono strumenti? Non ci capiamo più nulla? Non ci sono più confini? Beh, confini credo che davvero ne siano rimasti pochi. Forse l'unico confine possibile tra i giornali e i social network è la scrittura, credo, cioè come vengono trattati gli argomenti e con quanta accuratezza e attenzione ne scriviamo. Però trovo che siano degli strumenti indispensabili, fantastici. Non potrei stare senza Twitter, senza Facebook. Credo che anche per il nostro lavoro sarebbe veramente un peccato farne a meno. Avremmo molti meno stimoli, sapremmo molte meno cose e avremmo soprattutto molti meno spunti. Purtroppo il tempo è tiranno e ci è anche sfuggito di mano, perché avrei voluto chiedere un sacco di cose ad Annalena Benigni su due libri che io ho lì da leggere, che non sono ancora riuscita a leggere, che sono quello di Valérie Trier-Veller e quello di Lina Dunham. Beh, ma che io pagina li ho lì, di Annalena, io lì, ho lì, io li ho lì, non li ho ancora letti. Facciamo io che, li ho letti entrambi. Facciamo che da che... quale deve iniziare secondo te, Annalena, un consiglio? Inizio questo fine settimana? Beh, è più divertente e più adatto a noi è quello di Lina Dunham, perché è un diario confessione in cui però tutto tutte ci possiamo in qualche modo identificare, soprattutto per la goffaggine, per l'ansia, le nevrosi, anche se naturalmente Lena Dunham è una millennial che parla dall'alto dei suoi 27 anni. Mi sa che alla fine io mi sentirò più Valérie. Valérie anche per invece il sangue è che diario scorre. Confessione di una donna delusa, arrabbiata e molto vendicativa. Vabbè, ne parliamo quando le ho letti tutte e due, ma mi sa che mi sentirò più Valérie, ho questa impressione. Chissà chi è il tuo Orlando. Non lo diciamo. Grazie Annalena per essere stata con noi. Grazie Annalena Benini. Grazie. Buona Ciao. Serata. È stata con noi Annalena Benini, che non solo è giornalista del Foglio, ma è stata anche vincitrice al premio Spotorno del premio Primizie, lo dico dal io 19 perché al 21. Cioè in questi giorni a Spotorno. Esatto. YouTube. Lo dico anche alla 60ª puntata, cioè alla terza della nuova stagione, lo dico evidentemente per la 60ª volta, come vola il tempo quando ci si diverte. Si diverte. Pensa domani quanto ci divertiamo. Domani dalle 15 alle 15.30 un ospite, ma lo diciamo. Potremmo anche dirlo. Lo diciamo. Una volta. Lo dico io. Dai, dillo. Carlo Conti. Ma lui in persona? In persona, personalmente al telefono, che ci racconterà tutto su tale quale e qualcosa su Sanremo. Ma non ci posso credere. Sì, ma mi spieghi la storia del compromesso? La storia del compromesso. Ah, come funziona facciamo la scaletta? Allora, funziona così, che è come Lucy e Snoopy che parlano e Lucy spiega cos'è il compromesso. Cos'è? È come quando tu vuoi andare in montagna e io voglio andare al mare. Giusto. E quindi andiamo al mare, ma tu puoi portare gli sci. Quindi ho ottenuto qualcosa, no? Certo. Quindi bene. Prepara gli sci che andiamo Paolo al mare. Dice che ho vinto in regia. Allora, sai di cosa abbiamo parlato tanto l'anno scorso? Te lo ricordi il fenomeno della rete? Sì. Che sì, noi, peraltro, posso dirlo che abbiamo beccato tra i primi? Che siamo stati tra i primi a notarlo. Certo. Sto parlando di The Voice, sto parlando di questa qui. No, non canta Suor Cristina, perché questo è solo l'inizio di un audio, di un video che si chiama Teaser, un'anticipazione, che ha lanciato la Universal Music Italia sulla sua pagina Facebook. Sono tipo 18 secondi di base, si vede Suor Cristina che entra in studio e si mette le cuffie e si vede lo spartito di No One, la canzone che la rese celebre appunto con questo video, con fantastiliardi di visualizzazioni. Ma lei non aveva detto basta, torno? No, lei aveva detto non so, decideremo, vedremo, ma sai qual è la grande Universal notizia? Bello che si chiama Universo, certo. No, essendo cattolico. Va bene. Sì. Sai qual è la notizia? Sì. Che sembra una cosa da poco, ma tu che sei attento a queste cose capirai. Sì. Il dominio del sito è sistercristinaofficial.com. È già pronta, per il mondo, non è Suor Cristina. Ah, è quindi Sister la faranno cantare Cristina. In inglese, la produrranno e manderanno ai concerti a Madison Square Garden, tipo. Stiamo a vedere, secondo me. Ma lei me, però aveva detto, me. Io vorrei tornare a fare, vabbè. Abbiamo parlato di The Voice, parlato di social, esatto, parliamo di X-Factor. Parliamo di X-Factor, perché è tornato con le prime puntate, che sono poi, non sono ancora i live, perché sono le audizioni. Io sono andata alla presentazione e sono andata solo con una mission. Sì, intervistare Mica. Certo, perché Mica Pizze e Fichi l'abbiamo detto per settimane l'anno scorso. Hashtag. Dopo che Daniele Bellasio prima ha scoperto chi era Mica. Sì. Poi ha scoperto che era già un fan di Mica, senza sapere perché che era fosse famoso, Mica, sì. Che era famoso. Poi è diventato veramente il numero uno dei fan di Mica. Eccolo qua, abbiamo chiacchierato con Mica, che è un ragazzo delizioso. Ha solo il difetto di essere molto molto molto alto e quindi l'ho intervistato in piedi, mi è venuto un torcicollo. Come con l'avventura che è crollato mezza scenografia. Ma sì, sono tutte storie di vita. Noi che consumiamo i chilometri. Io ho chiesto a Mica, non potevo non chiedergli, visto che tutti gli chiedono cosa insegnerai a questi ragazzi di X Factor. Tu cosa gli hai chiesto? Cosa non insegna? Cosa ha imparato lui? Primo giorno di scuola, vai! Eccolo qua, Mica. Mi sono ricordato di questo sentimento che avevo quando iniziavo, quando avevo 17 anni con il mio demo fuori di un ufficio di una compagnia discografica, parlando con tutte le segretarie, aspettare fuori all'auto dove c'è l'entrata per parlare con tutti che possono parlare con me. Noi possiamo essere un po' in questo mondo, in questo lavoro, con le persone che lavorano da tanto tempo. Il pericolo è di non sentire più le piccole cose, questa paura, questa nervosità, questo piacere nelle piccole sfide, questo sentimento di questa voglia. Allora mi metto nella stessa testa che avevo quando avevo 16 anni. Questo è molto importante per non diventare un pane duro, per non diventare un pane vecchio che si mette con, non lo so, con... E anche per ascoltare musica, per riscoprire le canzoni che sono importanti nella mia vita e utilizzare tutte queste canzoni, anche quelli strani, per le loro performance. Bello, dolce, carino, mica, tanto carino. Io lo adotto come mantra: non voglio diventare un pane duro. Hai visto? Sei sentito, è veramente carino. Dice delle cose molto, molto interessanti, che fanno anche capire però, quanto lui è sensibile. Però avendo lavorato all'estero, sai che il suo italiano lo trova... Beh, bravissimo, beh, sì, voglio dire, parla 18 lingue. Anche perché l'aveva imparato in due settimane, sì, incredibile, sì. Incredibile. Però, cioè, capito? Deve riprendere la mano con l'Italia. Ha lavorato dove? Ha lavorato in Francia. Sai chi invece... Allora, X Factor, chi lo programma... conduce? Beh, come sempre Alessandro Cattelan. Ah. C'è Mika, confermato. C'è Morgan, confermato. E confermato il fatto che sarà comunque un'incognita, visto che alla conferenza stampa di presentazione non si è presentato. Non c'era. Poi c'è la novità di Fedez. Sì. E c'è la novità di Victoria Cabello. Non c'è Elio, quindi. Elio non c'è Elio quest'anno, c'è. No. La novità di Victoria Cabello, che ha già detto: X Factor, bello, programma più social di tutti, come tutti dicono, ma io non uso i social network, non mi interessano, non fanno per me. È come la Merkel, ecco, la Cabello è come la Merkel. Sentiamo Victoria Cabello. Io guarda, non lo frequento, è un mondo, forse Instagram, cioè ce l'ho ma mi dimentico di averlo perché non mi piace farmi gli autoscatti e quindi se devo fare una foto metto sempre foto del mio cane, di Silvano. Però non sento l'esigenza di esserci, poi sono una persona abbastanza discreta e non ho voglia di raccontare appunto dove vado, cosa faccio, non credo di avere un'opinione su tutto e quindi lo frequento poco. C'è un sacco di gente che invece ha un sacco di opinioni, lasciamo, come dire, spazio a loro, io sono felice anche così. E le reazioni di chi guarderà X Factor e ne twitterà, sei curiosa o te le farai raccontare? Ma sai, io una volta, e lo ribadisco, ho detto dalla Bignardi che trovo che sia molto interessante come mezzo, purché usato bene. Io sono rimasta sconvolta dalla cattiveria di Twitter nei confronti della figlia di Robin Williams quando si è suicidato. Ho trovato una cosa vergognosa. Ovviamente in mezzo a questi ci sono personaggi che esprimono dei giudizi, dei pareri che mi interessano e che quindi andrò a leggere. Poi per il resto, francamente, anche uno di quei luoghi dove appunto tutti possono dar fiato alla bocca e quindi non c'ho tempo di leggere queste cose, non me ne frega niente sinceramente, anche perché appunto c'ho altro da fare. Tranchante, direi Victoria Cabello. Quindi vabbè, salutiamo tutti perché è passato il tempo. Abbiamo parlato di X Factor, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo parlato di Spotorno, abbiamo parlato del premio Spotorno, abbiamo parlato, speriamo. Sì, dai, un bagnetto in Liguria. Allora, noi ci ritroviamo domani, lo abbiamo detto, dalle 15 alle 15:30 con ma un domani ospite, però. E domani proprio domenica. Domani è domenica. Domani con Carlo Conti. Vabbè, ci sarà con noi come sempre Paolo Corleoni in regia, quindi cosa facciamo? Mitico. Chi salutiamo questa volta, Daniele? Forse Lucy, Snoopy, tutti quelli lì. Salutiamo i Peanuts. I Peanuts, brava. Salutiamo i Peanuts, ci ritroviamo domani.